è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Polemiche, caro Parenzo, anche su Sandokan. Che bella musichetta. Hai capito, eh? Che grande cicletta. Ci ricorda tempi andati, ma in realtà Sandokan sai chi è, no? Io preferivo Liu Pen, comunque. Preferivi? Liu Pen. Arsenio Lupin. L'Arsenio Lupin. Liu Pen, Liu Pen, l'inafferrabile Liu Pen, Liu Pen. No, no, io preferisco Sandokan. La polemica, come sapete, è questa. Intanto c'è una notizia di oggi importante, come avete ascoltato durante i giornali radio. Ve la interpreto in questo modo, come ha scritto un blogger che ogni tanto consulto, uno di quelli considerati blogger di destra. L'ha messa giù in questo modo, senti Parenzo. Mentre Fazio e Saviano parlano e sparlano, si chiama Dow, questo blogger. Mentre Fazio e Saviano parlano e sparano, pontificano, fanno lista, lanciano accuse della televisione pubblica, decidono che Lega e la mafia sono la stessa cosa, avallando le tesi di un Berlusconi con legami con la malavita. Ecco, durante tutto questo il ministro degli interni della Lega del governo Berlusconi ha portato a casa pochi istanti fa un altro grande risultato, l'arresto del boss Iovi nel capo dei casalesi. Naturalmente questa è un'interpretazione molto polemica nei confronti della trasmissione di Fazio e Saviano, ed è solo l'ultimo di una lunga lista. Intanto i Fazio e i Saviano possono continuare a preparare la prossima puntata. Tanti auguri. È bella come provocazione, non c'è dubbio, anche se sappiamo che gli arresti non è che sono solo merito del ministro degli interni. Andiamo a sentire la polemica di oggi che riguarda appunto Sandokan. Tutto parte da una frase di Maroni di ieri. Proprio perché è un'accusa infamante, chi l'ha sostenuta deve avere il coraggio di ripeterla guardandomi negli occhi. Guardarmi negli occhi. Questa è la frase di Maroni di ieri. La risposta di Saviano. Ormai il livello della discussione politica, come avete capito, è questa. E ripeto, per me è stato un errore clamoroso dal punto di vista della comunicazione il fatto che il ministro degli interni, che è il ministro degli interni, abbia... si sia messo su un piano praticamente uguale a quello di un conduttore, di uno scrittore, seppur importante, come Saviano. Sentite Saviano di oggi su Sandokan. Quella frase mi ha molto inquietato. Quella sulla guardarmi negli occhi. Quando io scrissi su Repubblica la lettera a Sandokan Schiavone, sì, dopo l'arresto di suo figlio, invitandolo a pentirsi, l'avvocato di Sandokan Schiavone disse: voglio vedere se Saviano ha il coraggio di dire quelle cose a Schiavone guardandolo negli occhi, dirgliele in faccia. Per la prima volta ho riascoltato quell'espressione, questa volta non dall'avvocato di Sandokan Schiavone, ma dal ministro degli interni. Sono espressioni inquietanti, a cui io rispondo dove e quando vuole. Allora, Maroni a un certo punto ha detto: mi paragona a Sandokan, mi aspetto una smentita, ero il migliore per lui oggi come Sandokan, poi scherzando pensavo parlasse di Sandokan Kabir Bedi. Quando l'ho letto speravo che si riferisse a Sandokan nel senso di Kabir Bedi, e allora sarebbe stato un complimento, e invece purtroppo ho verificato che io vengo paragonato al boss della Camorra, e questo francamente mi sembra una cosa così incredibile che non voglio crederci, ok? Non ci voglio credere, confido ancora in un refuso. E tutto copre, tutto crea. Eccoci qui, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara e volentieri ospitiamo, caro Parenzo, a proposito di questa polemica e non solo, di tutte le polemiche intorno alla vicenda Fazio Saviano eccetera eccetera, Maroni, Loris Mazzetti, capo struttura di Rai 3 e curatore della trasmissione di Fazio e Saviano. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Ma come vuoi che stia. Se io oggi ho appreso che l'azienda probabilmente ha intenzione di licenziarmi, quindi non sto affatto bene, insomma. Ecco, come l'ha presa questa cosa? L'ho appreso perché il mio direttore mi ha comunicato che in rete è arrivata una lettera dove si annuncia un'apertura dell'ennesimo provvedimento disciplinare nei miei confronti. E questo perché? Perché lei ha parlato alla Sette? Perché, perché scrivo e perché sono andato alla Sette a presentare un mio libro, ma soprattutto credo di aver difeso l'immagine della Rai. Mm. Senta Mazzetti, ma perché lei dice licenziamento? Cioè, si chiede proprio, cioè, si avvia una procedura di licenziamento formale? Questo c'è scritto. Questo non lo so, ma sa, io sono recidivo ormai da una decina di provvedimenti disciplinari dall'epoca dell'editto bulgaro. Sì. E questo sarebbe il quinto con sospensione, perché ho già totalizzato 20 giorni di sospensione. E quindi penso che utilizzino questo momento per farmi tacere una volta per tutte, insomma, poi dopo. Cioè, secondo lei, mi spieghi un po' dal punto di vista, so che magari per gli ascoltatori non è molto interessante, ma in realtà la conclusione può essere interessante, non tanto la procedura. Cioè, c'è una lettera che lei ha visto, ancora no, che le è stata comunicata dal direttore di rete? Sì, che mi è stato comunicato dal direttore di rete, che domani sono in azienda, quindi penso che mi sarà ricapitata, io la firmerò e ho 5 giorni di tempo per presentare le mie motivazioni, dopodiché la direzione generale, in questo caso la direzione del personale, perché è firmata, come sta succedendo da un po' di tempo questa parte, solo dal direttore del personale, sì. Mi comunicherà il provvedimento e poi dopo io farò ricorso. Sì, beh, certo, ci sono tutte. Ma la motivazione, comunque, la motivazione quale sarebbe? Quella che lei ha partecipato a una trasmissione senza l'autorizzazione della Rai? No, ma esatto. anche le dichiarazioni di ieri, credo, no? No. Ma le dichiarazioni, David sa benissimo che più volte lui mi ha invitato alla sua trasmissione e anche una volta all'ultimo momento io. Perché mi hai detto appunto che dovevi chiedere, hai detto no, non posso perché devo chiedere l'autorizzazione all'azienda, esatto, per partecipare. Esatto. Quindi è questo il motivo che ti oppongo. Non mi autorizza mai, e quindi io per una volta ho deciso, visto che presentavo anche all'inizio della trasmissione un nuovo libro. E io ho deciso di partecipare senza in chiedere l'autorizzazione. In quanto autore del libro. Che poi parla della Rai, eccetera, vabbè. Esatto, come peraltro fanno tanti colleghi della Rai. Peraltro. Sì, c'è anche Borrelli che abbiamo ospitato qui e che è stato ospitato anche da altre trasmissioni e ha parlato anche lui della Rai. Mazzetti, lei pensa seriamente che si possa arrivare al licenziamento per una cosa di questo tipo? Io considero Mauro Masi una persona intelligente e quindi mi appello alla sua intelligenza. Cioè, dunque, lei si appella a Mauro Masi perché non si arriva al licenziamento? Esatto, poi dopo ognuno poi decide per proprio conto, no? E poi, scusi, ma chi è che la vuole licenziare allora? Le conseguenze dei propri atti. Scusi Mazzetti, ma se non è Masi, chi la vuole licenziare? Mica c'è un'entità astratta, cioè, si mette in moto un procedimento perché lo vuole qualcuno, lo vuole l'azienda, cioè, Masi. Sì, ma io non so chi mi vuole licenziare, io so che tutto questo mi arriva dalla direzione del personale, punto. Io leggo le firme di chi mi manda queste lettere, ecco. Va bene. Senta, la frase su Sandokan se la poteva risparmiare Saviano, lei che è il curatore della trasmissione. So che non risponde per Saviano, però comunque. Saviano non ha accusato Maroni, come ha detto Maroni. Beh, ha detto che quella frase era uguale a quella che. Ha detto soltanto questo. Io penso una cosa, vede, in tutta questa vicenda, e devo fare anche insomma, devo anche responsabilizzarmi, perché credo di aver anch'io commesso un errore ieri nelle mie dichiarazioni. Beh, lei non ci è andato leggero su Maroni, perché quando un capo struttura, sì, per carità, con tutto il rispetto, dice al ministro degli interni che è un ministro della Repubblica, certo, a disposizione telegiornali e altri programmi, lei io dunque per, su questo, che, su questo di, fa mea culpa? Credo, sì, io faccio una mia colpa, ma credo di aver anche motivato questa cosa. E siccome ho visto che oggi la reazione di Maroni nei miei confronti, raccontando un fatto che non è mai accaduto e non è mai esistito, ma ha unito il mio nome con la morte di Marco Biagi, io credo che a questo punto abbiamo tutti quanto esagerato. Evidentemente siamo tutti a fior di pelle. E probabilmente il ministro Maroni, con i fatti straordinari che stanno accadendo a favore della giustizia nel nostro paese, anche l'arresto di Iovene oggi, eccetera, insomma, quindi probabilmente ci siamo sentiti tutti quanti presi di mezzo, e tutti quanti forse dobbiamo fare un passo indietro. Dal mio scusi un attimo, poi sì, la lascio completare. Dunque, lei dice che aver detto ieri che Maroni è un ministro della Repubblica e può replicare altrove è stato un errore, giusto? Non è mica un delitto. No, aspetti, glielo spiego. È stato un errore, perché non dovevo essere io a pronunciare quel discorso, perché doveva essere il direttore di rete o il direttore generale, come ha fatto notare in un'agenzia oggi la consigliera Bianchi Clerici della rete. Questo qui io ammetto di avere. Però io parto C'è il traffico e torniamo subito dopo, non si preoccupi. 18:46 800 24 0024, ci sentiamo tra un attimo. Eccoci, 18:48 800 24 0024, caro Parenzo, Loris Mazzetti, dirigente capostruttura della RAI, curatore del programma, vieni via con me. Voglio capire, Mazzetti, se come va a finire questa storia di Maroni. Cioè, il direttore di rete ha detto che probabilmente ci può essere un video oppure una replica per iscritto. Sapete già qualcosa? No, io credo che Maroni abbia detto che lui non accetta questa soluzione, vuol guardare nelle palle degli occhi Saviano. E dunque credo ci sarà un contraddittorio? Quindi credo che si pronuncerà l'attuale consiglio di amministrazione in corso in questo momento. Noi siamo dei dipendenti della RAI, dopodiché possiamo non essere d'accordo, ma ci atterremo alle disposizioni. Ma quello che lei non è d'accordo col contraddittorio, dunque, sul punto, al di là del fatto che doveva parlare lei o no? Io infatti questo che volevo spiegarle, cioè io ho fatto il mia culpa, però rivendico una frase, cioè siccome qui si parla di opinioni diverse, allora a questo punto, se noi diamo la possibilità di replicare a tutti quelli che hanno un'opinione diversa, a tutti quelli che hanno un'idea diversa, allora noi dobbiamo dare i nostri programmi diventano la replica della replica della replica della replica della su replica. Questo, guardi che su questo io le do ragione, Parenzo, su questo voglio che su ne questo, pensi? No. Questo ha assolutamente ragione. Io su tutta la vicenda dico solo due flash. La prima, qualora la RAI dovesse davvero prendere la decisione di licenziare Loris Mazzetti, perché ha partecipato alla trasmissione della 7 in onda, presentando il suo libro e raccontando alcune cose della trasmissione, RAI non licenziano nessuno. Sarebbe una infamità, secondo me. Vabbè. Sarebbe un atto gravissimo, perché è un pretesto per rompergli le scatole per un programma di successo. Questa è la prima considerazione di principio, però, perché si usa un pretesto per attaccarlo. Sulla questione del programma, invece, secondo me Saviano ha esagerato. Cioè, è chiaro che quando tu dici e usi l'espediente di Sandokan il cattivo, quello che davvero lo ha minacciato di morte. Sì, perché dicendo, Mazzetti dice, non si rivolge, non dice che è come Sandokan, però insomma adesso non pigliamoci in giro. No, insomma, però evocando Sandokan, è evidente che si fa un parallelismo. È chiaro che Saviano non ha detto questo. se voi dite che è stato, come dire, un accostamento infelice, io quello dico, un accostamento infelice, un accostamento infelice, lo riconosce anche lui. Lui ha detto, è stata la stessa frase che mi disse Sandokan quando mi condannò a morte. Non ha detto che ha detto è inquietante, certo, non è che ha detto Maroni è come Sandokan, non ha detto questo, ha detto, ha usato la stessa espressione di Sandokan. Maroni ha detto questo, Maroni ha detto io uguale a Sandokan, questo sì, ha detto però, Mazzetti, no, non stia a spaccare il capello su questo, perché voi nelle trasmissioni non spaccate. Sì, no, l'unica cosa è che, ripeto, secondo me abbiamo tutti quanti, come dire, un pochino esagerato. Dobbiamo anche fare, Saviano ha sbagliato con questo accostamento, hai capito? un passo indietro. Guardi, le dico un'altra cosa che credo che sia fondamentale. Cioè, Saviano vive sotto scorta, si è incavolato il ministro che gli dà la scorta. Allora, io credo che, siccome considero Maroni una persona intelligente, io penso e spero e mi auguro che questo pensiero malefico che sto facendo io non sia scattato nella testa di Maroni. Cioè, qual è il pensiero, come dire, malefico? Scusi. Il pensiero che malefico, ma è il mio pensiero malefico. Cioè, sì. Noi, anche quando ho fatto quelle dichiarazioni che ho fatto ieri, immediatamente ho pensato: ma forse io sto mettendo in difficoltà Saviano, il rapporto molto buono con chi deve pensare alla sua sicurezza e alla sua salvezza. Cioè, lei pensa davvero che Maroni voglia togliere la scorta a Saviano? Tutti reagito distinto, come ha reagito distinto anche il ministro Maroni. Cioè, secondo lei, lei ha pensato, pensiero malefico, lei dice che Maroni potesse togliere la scorta a Saviano? No, questo no, dico che questa cosa non vada a, come dire, a deteriorare un buon rapporto tra il ministro Maroni e Roberto Saviano. Quindi io veramente spero che ci sia, come dire, almeno da questo punto di vista, un chiarimento. Senta, Mazzetti, ma a proposito della presenza di politici, è previsto qualche politico in più dopo quelli che già sono venuti o no? Al momento no, ma il discorso della presenza del politico, noi l'abbiamo sempre pensata e funzionare al programma e a un contenuto. Infatti Fini e Bersani sono venuti per fare la lista dei valori del centro, della destra e della sinistra. Se affronteremo, però lei non può dire che è un programma culturale, come ha affermato ieri, perché non è un programma culturale. Il nostro è un programma. No, ma quando io affermo che è un programma culturale, parlo di genere. Cioè, quando uno dice è un programma di intrattenimento, parla di genere. Il nostro è un programma che è di genere, di approfondimento culturale. Quando il genere è approfondimento culturale, per i regolamenti interni e concordati, peraltro con la Commissione parlamentare di vigilanza, la trasmissione può avere la presenza del politico. Se noi invece fossimo etichettati come genere intrattenimento, varietà, eccetera, il politico non potrebbe andare ospite alla trasmissione. A me personalmente risulta che a quelli che il calcio, il presidente Cotta è stato ospite perché in collegamento dalla fiera del Tartufo, e nessuno ha sollevato il problema, peraltro io mi permetto di dire giustamente, nessuno ha sollevato il problema della presenza del presidente Cotta. Senta, un flash, perché devo chiudere. Dunque, su Sandokan, Saviano ha esagerato. Un flash, 10 secondi. Saviano su Sandokan ha esagerato? No, questo qui lo dovete chiedere a Roberto Saviano. Io sono comunque e sempre dalla parte di Roberto Saviano. Grazie, ci sentiamo dopo il GR del 19 800 24 00 24. Zanzara. siamo qui, 19:18, caro Parenzo, 800 24 00 24. Io però, prima di dare la linea al TG3, vorrei sentire subito un ascoltatore, Nicola da Pescara. Buonasera. Buonasera. Dica. Cruciani, io non sono per niente d'accordo con quello che aveva detto lei sul fatto che Maroni ha dato risposta a Saviano, perché non è giusto che una persona di cultura, in questo caso lui fa lo scrittore, si metta in un programma fatto praticamente schierato, perché oramai gli hanno dato anche un colore politico, mi dispiace dirlo, ma è così, a dire quello che gli pare piace senza nessun contraddittorio, capisce? Io non sono per niente d'accordo. Tutto qui. Nicola, lei fa bene a non essere d'accordo, lo può dire tranquillamente. Io resto convinto del fatto che se Maroni non avesse sollevato questa polemica ieri, tutto sarebbe passato in cavalleria e non si sarebbe parlato di una trasmissione televisiva. Penso che un ministro degli interni può avere anche ragione al 100% e Saviano può avere sbagliato. Credo che un ministro degli interni, di fronte ad un programma televisivo, non debba nemmeno scomodare il suo portavoce. Questo lo penso e lo riconfermo. So che Parenzo non la pensa così, per esempio. No, però. è quello che io sostengo. Cioè, in un paese normale in cui la televisione, l'informazione conta per quello che deve contare, il ministro degli interni fa la sua attività, cerca di sconfiggere la criminalità, organizza le sue cose senza curarsi di chi va in televisione a dire cose corrette o scorrette, perché per le cose corrette o scorrette c'è la magistratura. Però sentiamo prima i titoli del TG3 e poi torno con te. Preso dalla polizia a Casal di Principe Antonio Iovine, capo di Casalesi, il clan di Gomorra, Saviano, aspettavo questa notizia da 14 anni. Una bellissima giornata, Maroni commenta l'arresto del boss, ma intanto attacca Saviano sulle infiltrazioni dell''ndrangheta al nord. Ma la direzione antimafia conferma che l''ndrangheta ha legami con aziende lombarde e influenza la vita politica e sociale. Berlusconi, la crisi ora sarebbe una iattura, ma se non c'è la fiducia si va al voto. Napolitano, abbiamo bisogno di senso di responsabilità. Il 29 novembre alla Camera il voto su Bondi, intanto si apprende che la Domus crollata a Pompei era stata restaurata l'anno scorso. In oltre 100 città proteste, blocchi e occupazioni degli studenti contro i tagli alla scuola, ma per la Gelmini sono solo vecchi slogan. 3.000 tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli, aumentano di 600 tonnellate al giorno, ancora tensione a Terzigno. Eccoci, 19:21, 800 24 00 24. Leggo oggi il breviario di Antonello Caporale della Repubblica, perché è geniale. Riporta una frase a proposito di televisione di Gianni Boncompagni, regista televisivo, grande esperto di televisione. Boncompagni dice: già fare la TV è gravissimo, guardarla è ancora di più. La politica di oggi, la fissazione col governo tecnico. Enrico Letta, il super Ciampi. Le forze politiche tutte fanno un passo indietro sui loro interessi personali e fanno un passo avanti dando il mandato a super Ciampi, a un super Ciampi, di formare un governo di responsabilità nazionale. Perché bisogna fare il governo di responsabilità nazionale? L'ho detto pochi minuti fa anche Pier Ferdinando Casini insieme a Bersani in una conferenza stampa per la presentazione del libro di Giorgio Merlo, che è un deputato del Partito Democratico. La volontà popolare, si torna indietro di tanti anni. Parenzo, aiutami tu. No, il super Ciampi. Tra l'altro l'abbiamo visto in televisione. Le cambiano la legge elettorale, questo sì, questo lo facciano in un paio di giorni. Ma si può fare anche senza un governo nuovo, certo, la legge elettorale. Se le forze politiche vogliono, se c'è una, come dire, si può fare anche con lo stesso governo, con le stesse camere, se c'è una maggioranza per un'altra legge elettorale. Siccome non c'è una maggioranza per un'altra legge elettorale, non esiste. Questa maggioranza, vedere, sì, ma sembra non esistere. Tutti quanti dicono che vogliono cambiare la legge elettorale e poi non si mettono d'accordo su quale legge. Però ti voglio far ascoltare la bufala vera di oggi è il fatto della crisi congelata per un mese. Cioè, sì, questo è clamoroso. Tutto è rimandato per un mese. Tutto. Questa è la fotografia dell'Italia che non funziona. La fotografia anche perché... del governo, anche Berlusconi è il primo che vuole tenere tutto congelato in attesa che altri deputati passino da una parte all'altra. Io questo non lo so, può darsi, c'è anche questo, ma questo qua è anche legittimo. Il problema è che quando in Italia si arriva... A un passaggio fondamentale, tutto diventa lungo, complicato, burocratico. Certo. Ci vuole un mese, due mozioni, il passaggio di qui, il passaggio di là. Intanto andiamo a Bari da Vito prima di farvi ascoltare altre cose. Vito. A Beri, sì. Vito. Pronto? Vito, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, volevo solo dire che per me Saviano è un patrimonio nazionale. Addirittura, Vito, adesso non esageriamo, non facciamo il monumento di Saviano perché non ce n'è bisogno. Però d'altro canto volevo anche dirvi che tutte le cose che lui ha detto le ha dette così bene, perché anche nei canoni della comunicazione, con le pause, con gli atteggiamenti teatrali, gli era dato l'impressione chiaramente che tutto fosse ancora più emozionante. Sì, questo sicuramente dal punto di vista della comunicazione potevano suscitare gli stessi effetti. E allora? E niente, allora oggi quella notizia appresa da tutti i TG, guarda quale? Caso il giorno dopo, due giorni dopo quello che è successo lì in TV. Cioè, non ho capito, lei sta dicendo che hanno arrestato Iovine apposta oggi? Sì. Io non credo che queste cose, Vito, poi per carità possiamo fare tutta la dietrologia che vogliamo, ma non credo che l'arresto di latitanti così importanti avvenga cadenzato dalla televisione, insomma. Era già tutto pronto, secondo me, hanno colto questa occasione. Era tutto pronto. Va bene, ma insomma, Parenzo, questa è la Zanzara e abbiamo le opinioni più disparate, mi sembra un spaccato importante del dibattito che si fa, come dice... No, perché qualcuno sono convinto che lo pensa sul serio, cioè magari potevano arrestarlo 5 giorni fa, invece l'hanno arrestato oggi dopo le polemiche, così... Questo fa il pari con l'ottimo amico della Zanzara, il ministro Rotondi, che il signore ce lo salvi per sempre... che ha detto poco fa l'arresto di Iovine, la risposta a Saviano, cioè questi devono smetterla, sia il cittadino... Sì, quella è una cretinata, però Rotondi lo dice, però scusami, Rotondi lo dice in questo senso, facendo la polemica sull'antimafia delle chiacchiere e l'antimafia dei fatti, che ci può anche stare come appello su queste robe qui, perché si devono mettere, perché il signore deve pensare alla dietrologia del fatto, ecco l'arresto con il timing arrivato dopo la polemica di Saviano, e l'altro che dice, il ministro che dice l'arresto dei capo dei Casalesi e la risposta a Saviano, ma per una volta si può dire viva le forze dell'ordine che l'hanno fatto e chiuderla lì? Sì, ma infatti si dovrebbe dire solo questo dicendo, e basta. No, allora ecco, ti faccio... Ecco perché, ecco, oggi dopo che ieri a Maroni lo ha attaccato... Hanno arrestato Iovine apposta. Sempre così, non è possibile. Sallusti versus Giovanni Valentini di Repubblica sul controllo delle televisioni di Berlusconi ieri a Ballarò. Beh, dire che Berlusconi controlla le televisioni, vorrebbe controllarle, sono d'accordo con te. Non è vero, ma guardiamo, ma hai visto la trasmissione di ieri sera? Capisci che questa è la cosa assurda. Ma l'alternativa l'annunziata domenica non mi sembra che fosse. Va bene, allora sta facendo il palinzesto. Santoro giovedì, voglio dire. L'80%, l'80%. No, ma questo è il paradosso. Adesso che Berlusconi non controlla nessuna televisione. Come si dice? E questo è il paradosso. Calmi. Vi prego di chiudere con dei concetti, velocissimi. Ci stanno per chiudere. Allora, a Napoli quando controlla la Dannini, altri nomi. E poi una Finocchiaro versus Gasparri a proposito dello scioglimento della Camera, che dice: studia Gasparri, studia. La Costituzione lo prevede, non è un'idea nostra. Ma non sai che la Costituzione la prevede. Studia Gasparri, studia! Ma in realtà qui c'è un certo snobismo da parte della Finocchiaro nei confronti di Gasparri. In realtà la Costituzione prevede lo scioglimento di una singola Camera, poi la prassi parla in un altro modo, sigletta su Di Pietro, perché effettivamente insomma c'è un Di Pietro a tutto campo, che è tornato il Di Pietro di qualche mese fa. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno. Come che mi dà spazio. Come mica, mica si chiamano tutti Fazi. Ma lei è sempre in televisione. Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Allora, Di Pietro, andiamo col primo. L'Italia dei Valori è una moglie fedele con il Mattarello. Il terzo polo sono signorine. Via. Non ho alcuna difficoltà ad allargare la coalizione. Ma ve lo ricordate la cosa più vecchia del mondo? Per sposarsi bisogna essere in due. Fini, soprattutto Casini, per Rutelli, vogliono fare un altro polo. Quindi non ti puoi sposare con chi ha deciso di non sposarsi con te. Lo sto dicendo al Partito Democratico. Sì, sì. È inutile correre appresso a questi. Meglio tenersi una moglie con Mattarelli in casa, con l'Italia Valori, ma leale e fedele, piuttosto che rincorrere queste signorine della politica che hanno già deciso di fare altro. Meglio tenersi una moglie col Mattarello piuttosto che gli altri. Di Pietro e il mercato delle vacche, perché molti parlano del mercato delle vacche che potrebbe aprirsi, dichiarazione di oggi, dunque 17 novembre, mercato delle vacche che potrebbe aprirsi in questo mese, cioè l'acquisto di parlamentari, eccetera, eccetera, il passaggio dagli uni agli altri. Noi dell'Italia dei Valori denunciamo pubblicamente il tentativo di compravendita che si chiama corruzione, ricatto, promesse indebite di chi vuole svendere la dignità dei deputati e dei senatori. No, ancora un altro. Di Pietro, Berlusconi è un Mussolini in sedicesima. Quelli che hanno a cuore le sorti di quel paese non possono non mettere al primo posto una legge tale che eviti che torni un domani un soggetto alla Berlusconi maniera, perché poi magari torna pure uno che, a differenza di Berlusconi, che è anche un po' un elemento caricaturale, è il Mussolini in sedicesima, che fa pure ridere, anche se fa umiliare e fa, diciamo così, imbarazzare. Borsa, torniamo subito. Siamo qui 19.36 800 24 00 24, ascoltatori direi Parenzo, con Davide da Bologna, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io vorrei dire la mia opinione rispetto alla vicenda Saviano, all'intervento del dirigente della RAI di prima. Nel contempo però prima volevo chiederle una cortesia. Se per caso lei riesce a recuperare il Sole 24 Ore di oggi, a pagina 17 c'è il virgolettato dell'affermazione di Saviano durante la trasmissione dell'altra sera, in alto, nella parte alta del quotidiano. Beh, poi grazie ai potenti mezzi vostri magari riuscite anche a farmi sentire l'audio, ma preferirei di no perché sto guidando e non vorrei stare male. Detto in che questo, senso? Perché lei dovrebbe stare male? Perché scusi, secondo me è una cosa estremamente, è veramente una cosa vergognosa questa affermazione. Se lei me la legge poi la commentiamo. Sì, adesso la leggo. Prego, quello che mi stupite, che mi stupisce è... Mi sente? La sento, la sento. Mi stupisce una certa anche disonestà intellettuale che noto. Ho sentito prima i titoli del TG3 e ho ascoltato anche il vostro radiogiornale. L'affermazione è: la DIA conferma che esiste il radicamento dell'andrangheta al nord. Ma questo nessuno l'ha messo in dubbio. Perché? Sì, perché glielo potevo dire anche io. Sì, Davide, lei ha ragione su questo, lo sa perché? Perché cosa c'è di sbagliato in questa frase? Non so chi l'ha pronunciata, se è il nostro giornale radio o un altro giornale radio. Entrambi. La DIA conferma, sembra presupporre che la DIA risponde o entra nella polemica. Esatto, la coincidenza di questa affermazione, come dire, Saviano ha detto la verità e Maroni sta facendo un caso di una cretinata, ma non è quello che ha detto Saviano. Non è quello che ha detto Saviano. Io le dico che il mio vicino di casa, nel mio condominio, è stato arrestato per associazione mafiosa andranghetista un paio di anni fa. Quindi non serviva la DIA. Saviano però ha detto un'altra cosa. Ma scusi, la frase è questa qua. Scusi un attimo, la frase che l'ha fatta, che le ha provocato. Cos'è che le ha provocato, Davide? Disgusto quantomeno. Disgusto. Bene. E questa qua, l'andrangheta a nord, è quella di cui abbiamo discusso ieri, però l'andrangheta a nord come al sud cerca il potere della politica e al nord interloquisce con la Lega, è questa? interloquisce con la Lega. Sì, quindi vabbè, ma ne abbiamo discusso ieri, non è una frase nuova. Io però ieri non ho ascoltato la trasmissione. No, no, prego, no, vabbè, non c'era bisogno di ascoltare la trasmissione. Però e poi, dunque, quindi lui non ha detto l'Andrangheta è radicata anche al nord. Perché, no, interloquisce perché con la Lega, ha detto, già. Ma questo l'abbiamo ascoltato ieri. Quindi l'Andrangheta sì. al nord ha sì. come interlocutore la Lega. Ora, lei ha detto sì. che, secondo lei, Maroni ha fatto male a reagire a questa affermazione. Secondo me, invece, Maroni ha fatto male a non querelare direttamente Saviano. No, ma guardi che io ho detto Maroni... un'altra cosa, Davide. Ho detto che se ha qualcosa da dire a Saviano, ci sono i tribunali, eccetera, eccetera. Dunque, farebbe bene, dal suo punto di vista, a querelare. Da un punto di vista più generale, di comunicazione... eccetera, ha riacceso, non ce n'era bisogno, i riflettori su quella trasmissione che lunedì farà il 40%, non so, il 50% probabilmente, dopo queste polemiche. Ma io mi auguro di no, ma credo che lei purtroppo abbia ragione. Però qui il punto è che Maroni o la Lega deve tutelare i propri elettori. Sì. Cioè io non, supposto che io voti Lega, non posso tollerare che ci sia un tizio in una televisione pubblica pagata da me che sì. dica che il partito che voto io è l'interlocutore dell'Andrangheta al nord. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Assolutamente inaccettabile. Davide, ho capito. Saviano, come lei sa, ha fatto riferimento anche ad un fatto particolare, di cui abbiamo parlato anche ieri, ed è un'inchiesta che c'è su un consigliere regionale della Lega che non è però indagato. Però sulla via sbaglia il radioascoltatore, Davide. Sulla, scusa? No, sulla direzione investigativa antimafia, trovando sì. anche qui un timing, dicendo ah ecco che bisogna... No, no, ma lui non voleva accusare la DIA, lui parla dell'informazione, l'ascoltatore. Ma l'informazione, cioè, c'è una ragione. Quando si dice replica, la DIA replica, ci replica sono infiltrazioni, sembra che la DIA esatto. entra nella discussione, ma Davide ha ricevuto... Ma non è così sbagliata. Evidentemente, no? L'informazione invece, è interpretata no, in questo modo. È la relazione che la DIA, che la Direzione Investigativa Antimafia ha presentato al Parlamento, come fa sì. ogni semestre. Certo. E quindi non è che ha fatto un comunicato stampa, è no, un documento ho capito, ufficiale. Certo, però scusa, Davide, deve saperlo, l'ascoltatore vuole dire... L'ascoltatore vuole dire un'altra cosa, anche nei titoli del TG3, e forse anche nei nostri titoli, non lo so, stavo facendo altro, non li ho ascoltati, si può pensare dai titoli che la DIA sia entrata nel merito della discussione tra Saviano e Maroni. Beh, effettivamente quando si dice però la DIA conferma le infiltrazioni è come se Maroni negasse le infiltrazioni, cosa che naturalmente Maroni non ha mai negato. Questo è il punto, insomma. Ma è un link che questo vuole dire l'ascoltatore. Io sto riferendo dai titoli è un link sbagliato, un po' politicista. Ho capito, ma il link viene fatto dai titoli dei telegiornali, hai capito? Non è che lo fa l'ascoltatore. Effettivamente dai titoli dei telegiornali si può evincere che la DIA risponde a Maroni. Cioè questo è il punto che vuole dire l'ascoltatore. Da sì, ho capito perfettamente, ma secondo me non è così. Non mi sembra di poter dare torto da questo punto di vista. Abbiamo un ospite, l'onorevole Olivier. Uno resta sempre onorevole anche se non ha più carico ufficiale. Oliviero Di Liberto, buonasera. Buonasera a tutti voi, io non sono onorevole. Lei non è onorevole, beh, uno resta sempre onorevole. In fin no, guardi, questi titoli sono francamente fastidiosi anche quando uno ricopre la carica. Si figuri quando uno non ce l'ha più. Ma no, lei non è, carità. Lei è ancora segretario, però. Sì, è ancora segretario nazionale del Partito dei Comunisti Italiani. E però ci sarà un appuntamento importante perché sabato e domenica, se non sbaglio, sì. ci sarà il congresso della Federazione della Sinistra. Il primo congresso, sbaglio? Sì, è il congresso fondativo, cioè i comunisti italiani, Rifondazione Comunista e altre sì. formazioni minori della sinistra finalmente si rimettono insieme. Parenzo, hai capito? Cioè il Roberto che una volta era detto di Liberia. Chi è che le disse questa cosa di Liberia la prima volta? Ho sentito che parlavate di giornali, io sì. ho avuto l'onore di essere il direttore di Liberazione, il giornale di Rifondazione Comunista sì. e tra l'altro un mio amico, Franco Grisolia, lo facciamo passare alla storia, che apparteneva alla corrente trotskista di Rifondazione Comunista, mi diede questo soprannome, diciamo. E come mai? Perché sosteneva che io non davo grande spazio alla sua corrente dentro il giornale. Però le è rimasta addosso questa cosa. Ma guardi, lei non lo ricordavo nemmeno io. Lei ha avuto sempre la fama di cattivo, non so perché, di uno molto tosto. No, le dico la verità, no? Sì. Duro, insomma, duro e puro. Beh, puro non lo so. Sa che cos'è che a me dà molto fastidio della politica italiana? Cosa? Il buonismo. Questo è vero. Che è cosa completamente diversa dall'essere buoni. Il buonismo è chi finge di essere buono. Io se devo dire una cosa la dico, non sto a pensare al linguaggio politicamente corretto, perché è insopportabile. Senta, chi è il più buono, il più finto di tutti? Adesso lei può fare Veltroni. Veltroni, assolutamente. Quel finto essere buono è in realtà è durissimo, l'abbiamo visto anche alle ultime elezioni. Beh, lei ce l'ha con Veltroni perché non ha più voluto fare l'accordo con voi, dunque ha portato la sinistra fuori dal Parlamento, quella che era chiamata l'estrema sinistra, diciamo. Guardi, io questa cosa l'ho detta in una intervista al Corriere della Sera Magazine, sì. Molti anni prima che Veltroni facesse questa cioè, idea. Su Veltroni, dice lei, il giudizio su Veltroni. Ma è un giudizio, come dire, credo condiviso del buonismo, no? Di Veltroni. Sì. Beh sì, certo, il manchismo, queste cose qua. Cioè, sto con gli operai, ma sto anche con gli imprenditori. Sto con gli operai e Candido Galearo, oppure Candido che l'ha mollato subito, naturalmente. Colaninno no, però, Colaninno ancora no. No, Colaninno no, ma Colaninno è diverso. Colaninno è sinceramente un democratico. Beh, Galearo però, è un padrone campione. Ma non padrone buono, è un democratico. Tra i padroni ci sono i democratici. Galearo era stato il campione della Lega nel Nord-Est, aveva sostenuto lo sciopero fiscale. Pare che avesse anche la suoneria di Forza Italia sul cellulare prima. Questo sinceramente non lo so. No, io dico però, vero, però io ho fatto un dibattito con Galearo a Ballarò pochi giorni prima della candidatura nel Partito Democratico, e Galearo diceva: spero che Prodi cada quanto prima. Quindi insomma un po' in contraddizione. Sai Parenzo, io sono contento di parlare con Diliberto, perché è uno che le dice chiare le cose. Sì, io non sono d'accordo quasi mai con quello che dice. Però è uno che non è che si sta là a traccheggiare, a fare. Per esempio oggi Diliberto, Bersani e Casini hanno proposto, io non ci posso credere perché, il governo di responsabilità nazionale, non solo il governo di responsabilità nazionale. Enrico Letta parla del, che ha detto, che cos'era quella, il super Ciampi, il super Ciampi, non lo posso ascoltare, poveraccio Ciampi. Abbiamo visto dal programma della Dandini, per carità, è una persona stimabilissima, eccetera, ma adesso evocarlo non è che pensava a Ciampi, il modello Ciampi, naturalmente. 30 secondi, torno subito con Diliberto. 30 secondi. Ma la federazione della sinistra, caro Diliberto, poi riprendiamo sulla vicenda del governissimo, del governo di responsabilità nazionale o governo tecnico, come lo vogliamo chiamare, la parola comunista, ci sarà comunque la falce e martello o qualcosa del genere oppure no? Il simbolo è il simbolo tradizionale della falce e martello. La parola comunista però resta nel simbolo, dico. Sì, sì, nel simbolo resta. Restano proprio i nomi anche dei due partiti che si uniscono, cioè Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani. Quindi c'è due volte, diciamo. Cioè due volte. Parenzo, tu che dici? Ma non so, la rifondazione, una sorta di rifondazione comunista, ma sì, no, ma dico, stanno muovendo tante cose, non so se ce n'è, come dire, se ma c'è ancora è vero, nel paese, è vero, no, no? Diliberto, cioè, scusa, perché attaccarsi a un simbolo ancora, voglio dire, c'è da una parte un cantiere, ma che glielo posso dire. C'è bisogno ancora di comunisti, c'è ancora bisogno di comunisti. Che differenza c'è tra voi e Vendola, ad esempio? Il simbolo solo vi distingue? No, allora premetto che io vorrei fare un'alleanza con Vendola anche alle prossime elezioni politiche, e cioè presentare un'alleanza della sinistra tutta quanta, quelli che stanno a sinistra del PD, che secondo me avrebbe anche un discreto successo elettorale. Però Vendola vuole? Io personalmente lancerò questa ipotesi, l'anticipo, grazie alla vostra cortesia, al congresso di sabato e domenica. Dalla radio di Confindustria, voglio specificare. Sì, ma guardi, posso dirle una cosa? Mi dica. Io, come lei ha detto, sono duro, tra virgolette, chiaro. Ah, duro caratterialmente. Chiaro, ma esatto. Però io sono stato, come dire, nel PC, ormai purtroppo un'età per parlare anche al passato, di quelli che si richiamavano a Giorgio Mendola, e cioè uno che cerca di fare politica parlando delle cose da fare e non con gli slogan. Allora, Confindustria oggi propone un modello di società, io mi vorrei confrontare, vorrei avere l'opportunità purtroppo i media ci hanno, tranne voi, grazie, oscurati. Vorrei confrontarmi con il modello Marchionne. È un padrone democratico oppure no, Marchionne? Ma no. Guardi, Marchionne sta facendo una cosa gigantesca. La spiego in parole molto semplici. Sì. Nella nostra Costituzione è previsto il diritto di sciopero. Sì. Quindi è un diritto sancito nella fonte del diritto più alta del nostro paese, la Costituzione. Sì. Bene, attraverso un contratto Marchionne fa sì che i suoi lavoratori, quelli di Pomigliano, non possono più scioperare. Questa cosa è folle dal punto di vista giuridico, lo dico visto che insegno la Sapienza diritto, e oltre che essere profondamente ingiusta. Lei dice che è anticostituzionale addirittura. Totalmente anticostituzionale, proprio totalmente. Le posso fare una parentesi? Io ho il busto di Marchionne dentro casa, così. Questo non è incostituzionale, perché ciascuno ha i busti che vuole a casa, ci mancherebbe a casa propria, uno c'ha il busto che... Sono tentato di portarli in redazione, ma come sa, le redazioni non sono molto aziendaliste. Ma non hai il maglioncino però, il tuo busto? No, il maglioncino ogni tanto lo porto, però in realtà no, non sono fissato. Io, guardi, il Sole 24 Ore, altro organo di Confindustria, come certo, noto, qualche mese addietro ha pubblicato le dichiarazioni dei vari leader della sinistra, che negli anni passati avevano elogiato Marchionne come modello dell'imprenditore buono, positivo, democratico, avanzato, eccetera, eccetera. Non troverà nessuna mia dichiarazione. No, ma questo lo sapevo, certo. Perché quel modello che propone Marchionne non è solo ingiusto, è sbagliato. È sbagliato dal punto di vista della politica economica. Perché il costo del lavoro nell'auto, prodotto auto, a prodotto finito, è il 3,5% del costo, cioè quasi niente. Allora, insistere nell'abbattere il costo del lavoro invece che insistere su altre voci è sbagliato, è peggio di un crimine, è un errore. Senta, ma la questione della Costituzione sul diritto di sciopero me lo può spiegare? Perché è una cosa grave dire uno viola la Costituzione. Le spiego, ci sono dei diritti considerati inviolabili nel nostro ordinamento. E restano tali però, non è che uno non può sciopero. Ma uno non si può impegnare per contratto a non avere un diritto costituzionale. Non è che quindi Napolitano dovrebbe intervenire. No? Dunque dovrebbero intervenire, non so, chi, i gendarmi. Guardi, questo è un contratto tra privati, quindi secondo me non ha nessun valore. Il punto è che se poi scioperano, Marchionne li licenzia. Ma lei ha capito il PD con chi sta? Perché non si è capito bene questa cosa. No, nel PD ci sono una parte che... Alcuni sono venuti alla manifestazione della FIOM. Alcuni che sono andati alla manifestazione della FIOM, che è appunto una delle tante contraddizioni drammatiche, lo dico da non PD, ma drammatiche per tutti noi, del Partito Democratico. Senta, tra Marchionne e Veltroni lei chi salva? Mi faccio un gioco della torre divertente. Tra Marchionne e Veltroni. Guardi, io ho già fatto una volta un gioco della torre, per via del quale sono stato processato. Addirittura. Sì, guardi, ero dalla Daria a Bignardi e le invasioni barbariche e mi fecero la domanda, la Bignardi mi fece la domanda e dice: ma lei, dovendo scegliere, andrebbe a Villa Certosa da Berlusconi o al billionaire di Flavio Briatore? L'ho mandata quella dichiarazione di Diliberto, l'ho mandata fu una battuta per 20 giorni. Dissi, vabbè, a Villa Certosa mai, ma che scusi, Briatore le ha chiesto dei soldi, no, che sembra paradossale, forse... ma la procura della Repubblica non mi ha chiesto dei soldi, cioè, Briatore, io non ne ho e Briatore ne ha, quindi diceva non è un problema di soldi. Sono stato sotto processo per istigazione a delinquere, ma si rende conto, l'ho assolto naturalmente. Qual era la frase? Qual era la frase? E io dissi, guardi, a Villa Certosa mai. Se devo proprio andare, vado al billionaire, ma imbottito di tritolo. Che era evidentemente una battuta, come è chiaro a chiunque, compreso il pubblico, che appunto si è messo a ridere. Anche perché io non ho intenzione di immolarmi per Briatore. Anche perché, insomma, lei è un vecchio, tra virgolette, pacifista. Ma poi ci mancherebbe altro, era una battuta per dire... Ecco, quindi quando mi si pongono domande secche così, visto che io non preferisco né l'uno né l'altro, evito... No, ma questo è un gioco della torre con dei cuscini sotto, quindi non esatto, muore nessuno. Però lei stima di più Berlusconi o Veltroni? Questo me lo può dire, a livello proprio due, di stima. Ma tra i due stimo di più Veltroni, ci mancherebbe altro. No, non sono così settario, è ovvio che se mi dice tra Veltroni e Berlusconi non ho dubbi. Addirittura, io pensavo di no, su questo mi sorprende. Pensavo che siccome chi è più vicino, chi si sente tradito da una persona vicina, no, può avere anche un certo astio nei confronti della persona più vicina. Su Berlusconi... ma l'astio non mi impedisce di averne di più nei confronti di Berlusconi. Ma guardi, io insegno all'università e mi confronto tutti i giorni con i drastici tagli che sono stati fatti al settore vitale per il futuro del paese, che è appunto la scuola e l'università. E chi li ha fatti i tagli? Vabbè, ma quelli da anni ci sono i tagli. No, fermo, no. Lei lo sa che da anni. No. I tagli che sono stati fatti da questo governo sono senza alcun precedente nella pur disgraziata storia repubblicana per quanto riguarda la scuola e l'università. Sì. Questo è un dato aritmetico, hanno tagliato 1 miliardo di euro, cioè. E tra Saviano e Maroni chi ha ragione secondo lei? Ha sbagliato per esempio quel riferimento a Sandokan, è sbagliato secondo lei quello fatto da Saviano? Secondo me sì. Ma il riferimento a Sandokan mi sembra un'esagerazione, come è evidente, credo, qualunque persona di buon senso. Io sostengo che per esempio Maroni, ministro degli interni, non deve parlare di una trasmissione televisiva, quello che sostengo. Guardi, siamo d'accordo, sarebbe strano, io do il busto di Marchionne, se lei è d'accordo con me. Io appartengo ad una generazione nella quale i ministri degli interni parlavano una volta l'anno. Beh, fantastico questo, una volta l'anno, che bello, perché non succede come questo? Come i governatori della Banca d'Italia, che una volta parlavano soltanto il giorno che inauguravano l'anno della Banca d'Italia. Perché Parenzo, una volta l'anno dovrebbe parlare il ministro degli interni, sono d'accordo. Parla con i fatti il ministro degli interni. Sono d'accordo, quanto sono d'accordo su questo. Abbiamo i telegiornali, però torniamo subito anche con Diliberto, 800 24 00 24, i titoli dopo la pubblicità. Allora, eccoci qui in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24, su Radio 24. Davide Parenzo in collegamento da Roma, sempre da Roma. Olivero Diliberto, segretario nazionale del Partito dei Comunisti Italiani, che sabato e domenica inaugurerà, diciamo così, poi non so se sarà lui fisicamente a inaugurare il congresso, della federazione della sinistra PDC con Partito della Rifondazione Comunista di coalizione, nemmeno se Vendola si vuole alleare con lei, Diliberto, si vuole alleare Vendola con lei? Ma no? Io ho partecipato al congresso di Sinistra e Libertà di 15 giorni fa a Firenze e lui ci ha lanciato un messaggio unitario, per cui io lo accolgo e lo rilancio. Ma poi ci ha parlato un po' più, diciamo, in privato? No. Poi se avessi parlato in privato, contrariamente a tanti non glielo direi. Non me lo direbbe, giustamente. Senta, però c'è stato un momento in cui è uscita fuori una notizia che lei ha smentito, cioè il fatto che c'è un accordo con il Partito Democratico, perché alcuni esponenti, tra cui lei, dei comunisti italiani, insomma della Federazione della Sinistra, saranno ospitati nelle liste del Partito Democratico in caso di elezioni, dunque una sorta di accordo elettorale che poi non prevede la partecipazione all'esecutivo, a un eventuale esecutivo di centrosinistra con il Partito Democratico. Si è mai parlato con Bersani di questo? Lei ci ha mai parlato? Io ho parlato pubblicamente e in privato, questo si può dire, con Bersani, ma mai abbiamo parlato di una presenza nostra nelle sue liste. È stata una notizia che tra l'altro lo ha messo molto in difficoltà, io non ho nessuna molto intenzione di mettere in difficoltà Bersani. Comunque posso smentire categoricamente, e credo di avere qualche coerenza alle spalle per poterlo fare, che io non mi sono nemmeno candidato 2 anni fa alle elezioni politiche, unico segretario in carica, lasciando il mio posto, come qualcuno spero ricorderà, ad un operaio della Thyssen. E si figuri se mi candido nel Partito Democratico. Ma lei un'alleanza col Partito Democratico la vuole fare oppure no? Ne ha parlato? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ne ha parlato con Bersani? Bersani è d'accordo? Bersani è d'accordo? Ma Bersani lo ha detto pubblicamente, vuole fare un accordo di tutti coloro che oggi stanno all'opposizione, dentro e fuori dal Parlamento. Beh, insomma, adesso esplicitamente non ha detto che vuole fare l'accordo con voi. No, guardi, ci sono diverse interviste di Bersani in cui Bersani non è che ha detto che lo vuole fare solo con noi. No, solo con voi. Lo vuole fare con tutti quelli che stanno all'opposizione. Beh, insomma, a un certo punto bisognerà scegliere, non è che si può fare. Lei invece pensa che si può fare un cartello di tutti quanti quelli che stanno all'opposizione, anche fino a Casini? È difficile a Montezemolo. No, ma io penso infatti ad un'alleanza che comprende il Partito Democratico, l'Italia dei Valori e la sinistra. Quindi ci senza torna l'UDC, senza le dico una cosa, non so se sarebbe possibile, ma di sicuro non sarebbe conveniente, perché se Fini si alleasse, non con me, come è impossibile, ma se Fini si alleasse con il PD, non lo voterebbe, nemmeno i parenti lo voterebbero. Lei non si allerebbe nemmeno in caso di questo famoso governo di unità nazionale o comunque un governo Io credo che nella poca chiarezza il centro-sinistra continui a perdere consensi. E l'idea di una grande ammucchiata con dentro tutti, secondo me, è un regalo a Berlusconi. È un governo tecnico invece presieduto, non so, da Draghi o una sorta di simil Ciampi? Beh, sarebbe comunque sostenuto dal PD, dall'UDC e da Fini. Sì. Francamente, ripeto, è un regalo a Berlusconi. Perché sarebbe un governo che non esce dalle urne, cioè non esce dalla volontà degli elettori, sì, contro chi ha vinto le scorse elezioni, si darebbe un'arma formidabile a Berlusconi per fare la campagna elettorale. Mi devo preoccupare, Parenzo, sono d'accordo ancora una volta con Diliberto su questo. No, forse è preoccupante. Ma guardi che il buon senso, non è grave, il buon senso, merce rara, merce rara. Ma il buon dunque senso, dopo Berlusconi ci sono le elezioni, Diliberto, mi faccio capire, dopo le elezioni, per forza, no. No, per forza, diciamo, questa è la via maestra della democrazia. No, certo, no. Tutto il resto che cos'è? Tutto il resto sono pastrocchi. Tutto il resto sono pastrocchi, sì. Ed è un'arma, ripeto, data a lui. È un'arma formidabile. Cioè, l'idea di ribaltare il risultato delle urne con obiettivamente una manovra di palazzo, sì, secondo me non è conveniente per la sinistra. No, ma Parenzo, è così, lo dico da tempo. Dov'è? Studia. Fammi sentire un attimo. Ancora una volta, per compiacere il capo! Allora. Questa era la finocchiata di ieri sera a Ballarò. A proposito, ma com'è questa storia che lei rimprovera Floris, suo conterraneo, se non sbaglio? Beh, io ho tanti conterranei, per carità, non è tutti quanti necessariamente la pensano come lei, naturalmente. No, io ho detto a Floris una cosa molto semplice, ma glielo ho detto in amicizia. Tutti i conduttori che si battono per la libertà di stampa dovrebbero pensare che la libertà di stampa non si ferma al Partito Democratico o a Di Pietro. Cioè a quelli che sono in Parlamento, dice lei. No, perché chi non viene invitato in Parlamento non è Diliberto, è il milione di elettori che ci ha votato all'ultima. Però mi scusi, elezione. Diliberto, le posso fare un'obiezione da questo punto di vista? Certo. Però quando voi siete usciti dal Parlamento, adesso non stiamo a raccontare perché, come, quando, eccetera, inevitabilmente questo prevede e implica il fatto che siete meno, diciamo, tra virgolette, importanti dal punto di vista parlamentare. Sono d'accordo, e dunque, ma non del tutto scomparsi. No, per carità, ma una persona non scompare solo quando... Tanto è vero che lei mi ha invitato. No, certo, io... l'ho invitata soprattutto perché lei parla chiaramente, perché è una persona che radiofonicamente viene molto bene e dice delle cose chiare, però non per quello che dico. No, sì, come l'ho detto anche, è una persona che dice le cose chiaramente, le cose chiaramente. Ecco, però lei vede, mi ha invitato e io porto da lei, sì, per i nostri ascoltatori, un pensiero critico. Sì, certo. Il pensiero critico è scomparso. Beh, insomma, è critico da che punto di vista? Dal punto di vista sociale. Il pensiero critico dal punto di vista... Lei mi ha fatto una domanda prima, la falce e martello. Sì. Falce e martello non sono i simboli di un'ideologia astratta, sono i simboli del lavoro salariato. Però, per esempio, nell'avvertenza, quando c'è stata la discussione grossa anche dal punto di vista mediatico della Fiat, eccetera, eccetera, abbiamo visto in tante trasmissioni, non i partiti, ma sicuramente rappresentati i sindacati, la FIOM, eccetera, eccetera. Per cui il pensiero critico non è che sia scomparso. I sindacati fanno un altro mestiere, e cioè la rappresentanza politica del mondo del lavoro salariato è scomparsa. Sì. Guardi che il tema di Marchionne è un tema delicatissimo. No, ma è molto importante. Certo. Io spero che Berlusconi venga sconfitto. Ma se se ne va Berlusconi, Marchionne resta. E io mi voglio confrontare con quelle idee per dimostrare che quelle idee non funzionano in Italia. E cioè che se noi vogliamo essere competitivi, parola cara a tutti, anche competitivi, io sto accarezzando questo busto qua, su scala globale. Caro Marchionne, stia tranquillo. Marchionne sta tranquillissimo, non ha certo paura di me. Però qualcuno evidentemente sì, se non mi invitano. Non funziona quel modello. Con Floris vi siete chiariti poi o no? Vi siete parlati? Con chi, scusi? Con Floris o altri conduttori? Cioè, che le ha risposto? Diciamo che speriamo di trovare qualche spazio in futuro. Mettiamola così. Beh, le ha promesso qualcosa. Diciamo speriamo. No, no, io non ho parlato con Floris. Non ho parlato con il direttore. Io non parlo mai con nessuno, non vado a pietire niente. Guardi, non appartiene al mio genere. Voglio ricordare agli ascoltatori che Diliberto fu protagonista di un magnifico scontro preelettorale, se non sbaglio, nel 2006. Esatto, con Berlusconi a Matrix. Fu un formidabile ascolto. Secondo alcuni, tolse elettori al centrosinistra. Io, francamente, non credo, non è per quello che poi Prodi perse voti alla fine per altre questioni. Devo dare la pubblicità, torno subito. Eccoci, ancora qualche minuto con Olivero Diliberto prima di riprendere il nostro colloquio con gli ascoltatori. Che c'è su Blob? Stanno facendo rivedere Stalin, elegia faziosa. Piacere. Per il bene comune, Federazione dei Verdi, Partito dei Comunisti Italiani, Partito Animalista Italiano, l'elenco di Fazio. Chissà se Di Liberto la pensa come me anche sulla genericità e la banalità dei valori di sinistra e di destra pronunciati da, perché a quel punto mi preoccuperei sul serio, da Bersani e da Fini. In realtà ci sono delle cose in Italia che io classifico come luogo comunismo, cioè i luoghi comuni. Insomma, la pensiamo allo stesso modo. Che, no, devo dire, a me Bersani non è dispiaciuto, però c'è un punto di fondo ed è la contraddizione tra capitale e lavoro. Non si può risolvere col buonismo, appunto. Con che scegliere? Con la rivoluzione, da non che credo. Parte stare? No, guardi. Nella vecchia Europa, nelle società a capitalismo avanzato, c'è un'unica possibile risposta, si chiama scuola. Come scuola? Scuola, glielo spiego. Noi vogliamo produrre delle cose migliori degli altri e quindi non chiudere le aziende, bisogna produrre cose migliori e avere maestranze migliori, perché se non sono migliori vengono prodotte all'estero, vengono delocalizzate. Allora, tutto quello che... Cioè lei dice formazione, questa formazione... Non la formazione nel senso della formazione professionale, che non serve più a nulla. Beh, insomma, adesso... No, scusi, negli anni 50 si insegnava un mestiere ai lavoratori e quel mestiere rimaneva tale per tutta la vita. Oggi, con l'avanzare delle tecnologie, l'innovazione porta al cambiamento dei lavori di sei mesi. Allora bisogna puntare sull'intelligenza, sul senso critico, sull'elasticità mentale, e cioè puntare sulla cultura... che da un lato ti dà consapevolezza dei tuoi diritti, dall'altro ti dà un'arma formidabile che oggi in certi mercati ancora non c'è. Però nessuno punta più sulla cultura, si punta molto sulla specializzazione. Guardi, le faccio un esempio. Il tessile cinese invade l'Italia e distrugge le fabbriche italiane perché costa meno. Ma lei sa con quali telai fabbricano il tessile in Cina? Con dei telai fabbricati a Bergamo e ogni sei mesi quell'imprenditore, che è un imprenditore intelligente, cambia il prodotto, cioè lo innova, lo rende un po' meglio di quello che aveva prima e lo fa a Bergamo perché ha dei lavoratori che sono più bravi di quelli degli altri posti. Tutto questo indica che c'è un'unica via d'uscita nella vecchia Europa, che è quello di costruire lavoratori, costruire, educare, formare dei lavoratori che siano in grado nella concorrenza globale di essere migliori degli altri. Per fare questo bisogna puntare su una scolarizzazione di massa molto più forte, altro che ridurre l'obbligo scolastico come è stato fatto da questo governo, ma innalzare l'obbligo scolastico. Senta Di Liberto, Parenzo, vogliamo chiedere cosa pensa di questa ipotesi che galleggia un po' nella politica di Montezemolo, caro Parenzo. Luca Cordero di Montezemolo. Innanzitutto tra Marchionne e Montezemolo lei chi butta giù della torre? Ma no, ma io non butto nessuno dei due, vorrei che continuassero a fare gli imprenditori e che lo facessero bene. L'idea che gli imprenditori facciano la politica e siano più bravi degli altri è un'idea deleteria che ha, ahimè, ridotto il Parlamento come si è ridotto. Una volta i grandi partiti di massa, mica solo i comunisti, anche la Democrazia Cristiana, portava in Parlamento rappresentanti di tutte le classi sociali, anche dei lavoratori dipendenti, gli intellettuali. Oggi tutto questo è finito. Vabbè, non è che un imprenditore non può fare politica adesso? Può fare politica, ma non è salvifico. Non è che il centro-sinistra mo si deve affidare all'imprenditore. Ma secondo lei questa è la strategia? Secondo lei puntano davvero su Montezemolo? Qualcuno punta a sinistra su Montezemolo? Io spero di no. Onestamente spero di no, perché sarebbe l'ennesimo autogol. Cacciari per esempio dice che senza Montezemolo non si va da nessuna parte. Ma Cacciari è ancora di sinistra secondo lei? No. Beh, appunto questo è il problema. Il punto sembra essere questo. Va bene, Parenzo. No, io avevo un'ultima questione da porre all'onorevole Di Liberto. Cioè, perché quando mi dice non ci invitano in televisione, sì è vero, sono completamente scomparsi dai media, questo è brutto, è triste. Però non è che esisti solo se sei in televisione, cioè nel paese esisti anche se intercetti altri circuiti. No? È un po' berlusconiana questa cosa della televisione. Ecco, questo volevo dire. No, guardi, le rispondo subito. È ovvio che... Lei esiste, è esistito fino ad oggi, indipendentemente dalla nostra mitica zanzara, quindi la gente sapeva che lei c'è, no? Quindi, non c'è dubbio, però per poter parlare a milioni di persone ormai... bisogna parlare in televisione. Mi è un po' berlusconiano lei. No, guardi, una volta c'erano altri sistemi informativi. Io faccio continuamente riunioni, assemblee, comizi in giro per l'Italia, ieri ero a Livorno. Sommandole tutte, io parlo ad alcune decine di migliaia di persone all'anno, frontale, come si vuol dire. Se appaio in televisione e dico la mia verità, lei ha ricordato il mitico match tra me e Berlusconi, io ho parlato a 4 milioni di persone. È una dimensione enormemente più ampia. Questo è un po' lo stesso lamento che però fa Pannella ormai da anni, che dice libertà. Guardi, Pannella ha avuto e ha una visibilità televisiva infinitamente più grande. Ha una radio Pannella tutta sua. Però che lui si lamenta pure sempre, pubblica, non c'è nessuno. No, ma io non mi sono lamentato da mai. Per chiederle. Ma è vero, è la prima volta che sente. Sinistra e Libertà nessuno mi ha mai sentito lamentarmi dell'assenza televisiva. Lo faccio perché sono due anni che ci hanno oscurato sistematicamente. Però quindi vuol dire credo che sia un dato lei, obiettivo. Sinistra, Ecologia e Libertà ha costruito il suo successo grazie a questa forte esposizione mediatica. Cioè... Ma guardi, un'occasione fantastica, che sono state le primarie in Puglia stravinte per fortuna da Vendola. E lì Davide contro Golia è un po' quello che è successo. Ma secondo lei esiste Sinistra e Libertà o esiste Vendola? Questa è una cosa interessante. Esatto. O è... Guardi, Sinistra e Libertà esiste perché anche alle ultime elezioni, parlo delle elezioni europee di due anni fa, dove non c'era ancora il fenomeno mediatico di Vendola, presero comunque il 2,5%, non mi ricordo una cosa del genere. No, senza Vendola? Con 3-1, con Vendola, e questa Vendola è bravissimo, ha un impatto mediatico efficacissimo, è ovvio che è infinitamente aumentato, quindi come vede la televisione conta e come. Bene, grazie Diliberto, l'aspetto presto, ogni tanto la chiamiamo, non so. Da parte vostra lo so. Io ho sempre qui il busto di Marchione che sto accarezzando perché lei me l'ha trattato un po' male. Però insomma, ho detto la mia mia piccola verità. Certo. Ho avuto l'occasione di poterla dire. Ma la Marcegaglia è buona o un imprenditore cattivo o buono? Secondo me propone delle ricette sbagliate, non è questione di buono o cattivo, delle ricette sbagliate. Se gli imprenditori del nostro paese... Però è stata eletta come una delle 50 donne più potenti del business, secondo il Financial Times, è l'unica italiana, lei dovrebbe essere orgoglioso, le donne... La top 50. Guardi, le donne sono tante e l'idea delle donne che è circolata in questi ultimi anni nel nostro paese è terrificante, perché la mercificazione del corpo femminile è una cosa che a me fa ribrezzo. Il fatto che le donne vadano avanti è un fatto estremamente positivo. Appunto. Mi farebbe piacere che andassero avanti anche le operaie della Marcegaglia. Nella top 50 del Financial Times, però è chiaro che le donne manager si sta parlando di la mia classifica non può essere quella del Financial Times. No, su però anche fare la velina è fare un lavoro, no? No? Ma guardi, io vorrei che non esistessero le valine. Come? Beh, adesso me la dice grossa, davvero vuole che nel suo mondo ideale le veline non dovrebbero esistere. Ma è un lavoro, assolutamente no. Però nemmeno la televisione controcorrente. Non esisterebbe nemmeno la televisione che lei invece reputa fondamentale. Guardi che la televisione italiana per 40 anni ha svolto un'opera di alfabetizzazione di massa straordinaria. Però le soubrette ci sono sempre state, anche Sandra Montalbano. Ma non erano le veline, non è io non ho... Forse e poi aggiungo una cosa, non venivano portate in Parlamento. E chi è in Parlamento una velina, per esempio? Secondo tante, che hanno fatto le veline. La prima. Tra Parlamento e consigli regionali. Tra Parlamento e consigli regionali, ogni riferimento. Quelle sono igieniste dentali. Quelle sono igieniste dentali. Che l'hanno fatto dopo però, ho capito, però l'igiene è importante. Ha visto la copertina di Newsweek? Sinceramente no. È interessante. Bene, come dice Newsweek, ha due gambe molto interessanti. Come no, l'ho vista sui giornali italiani. Berlusconi's girl problem. Come no. Ha un problema con le ragazze, la sua cultura da harem sta minando l'economia italiana addirittura. Questo mi sembra un po' esagerato. Ma un po' esagerato, insomma. L'economia non lo so, ma la credibilità internazionale sì. Sì. Ma lei mi ha anche bacchettone un po' su Berlusconi o no? O pensa che sia un problema? No, guardi, se Berlusconi facesse quello che gli pare in camera da letto, questo sarebbe solo un problema suo. E invece quello che fa in camera da letto diventa un problema di Stato. E perché? Perché troppe donne, dice, troppe, 30 botta sono troppe. No, ma non per quello, perché se uno poi scomoda la questura di Milano per farne liberare una che era stata arrestata per furto, diventa un problema di Stato. Bene, grazie. Grazie a voi. Traffico. Siamo qui, caro Parenzo. Abbiamo ascoltato una voce, insomma, simpatica a modo suo, certo, proveniente, come ci dice un ascoltatore, quasi da un altro mondo, no? Flintstone quasi. Beh, però fantastico, voglio invitarlo ancora. No, quando, perché ha sempre la risposta pronta e non capisco perché non viene chiamato un grande lottatore, un grande. Le trasmissioni televisive funzionerebbe molto, perfettamente molto, ancora. Un sagace polemista. Tra l'altro, su questa storia delle veline vorrei che non esistessero proprio le veline. Meraviglioso. Qualcuno magari sono cose ancora che pensano dentro molte persone e non hanno manco il coraggio di dirlo. A sinistra credo di sì, purtroppo. Vabbè. Roberto da Cremona, adesso ascoltatori fino alle 21, ascoltatori fino alle 21, 800 24 00 24, dopo le 20:30 facciamo sentire questi titoli della setta, se volete. Magari chiami qualche velina anche, se vuole. Beh sì, è per rispondere a Diliberto, dici, no? Veline, chiamateci, 800 24 00 24. Lasciateci. Roberto, Rosani. Buonasera, che buonasera. Tempo fa a Cremona? Scusi? Che tempo fa a Cremona? Bah, tempo non troppo bello, inizia a far freddo. Cosa mangia lei stasera? Ma stasera ho già mangiato pasta, è stato abbastanza leggero. Wow. Altra parte, pasta come? Pasta pomodoro, una cosa abbastanza in velocità. Triste, beh, triste. Leggero, insomma, leggero. Non è il periodo di vacche grasse. Beh, addirittura adesso non, no, è scherzo, costretto scherzo alla pasta al pomodoro. Non mi sembra. Lavorando, essendo sempre in giro, ho colto l'occasione per stare un po' indietro stasera. Che mestiere fa lei? Io sono in attesa di fare il famigerato esame di abilitazione alla professione forense, quindi sono patrocinatore legale. Ma lei quanti anni ha, Roberto? Scusi, mi faccio 29. 29 anni, bene. 29. Mi piacciono, 29 anni alla zanzara. La chiamavo per condividere con lei alcune considerazioni che alla luce degli eventi di questi giorni... Perché glielo chiedo? Perché ha una voce da... di una persona più adulta. Oggi mi sono trovato a moderare un convegno, sì, e c'era un cardiologo, un giovane cardiologo di 32 anni, che ti assicuro, Parenzo, sembrava ne avesse 50. Era un giovane talento della cardiologia italiana, una sorta di genio. Io l'ho anche detto, cioè, non è rimasto molto non era molto contento di questa cosa. Ho fatto, ma lei sicuro ha 32 anni? Sì, ho 32 anni, sono uno dei più giovani cardiologi italiani, sono un fenomeno, ho scoperto una proteina per la protezione del miocardio, diceva. Ho fatto, ma lei sicuro 32 anni? Ti assicuro, ne dimostrava una cinquantina. Vabbè, abbiamo una scorza dura noi giovani d'oggi, dobbiamo crescere prima, diciamo, mettiamola così. Niente, le considerazioni che volevo condividere con lei sono riguardo un po' la questione di questi giorni tra Saviano e Maroni. Io credo che alla luce di quello che è successo probabilmente è creato un po' di confusione. Io non riesco a capire come una persona del calibro di Saviano vada in televisione a dire certe cose quando un anno fa dichiarava che Maroni era probabilmente il miglior ministro dell'interno della storia della Repubblica. Oggi, in occasione appunto dell'arresto del boss dei Casalesi, è stato tra i primi a complimentarsi. Quindi io a questo punto sono intimamente convinto che in occasione delle sue dichiarazioni a Rai 3 sia stato almeno in qualche modo indirizzato da qualcuno a dire certe cose, perché io non riesco ma a... Ma chi? Dichiarazione a Rai 3 di chi? Scusi. Contro comunque Roni, contro quello che... Ah, lei stato... dice le dichiarazioni, esatto, durante la trasmissione. Non riesco a capire, Saviano non ha le idee chiare oppure non no, guardi, io non lo so, forse ha ragione Pierluigi Battista oggi sul Corriere della Sera quando scrive che parlatevi e forse vi chiarirete. Certamente c'è un aspetto che è quello delle inchieste al nord, no? Che coinvolgono in realtà, e questo è stato snobbato un po' nell'intervento di Saviano e mi ha colpito, inchieste che riguardano, Parenzo, tu lo sai benissimo, il Partito anche Democratico, alcuni esponenti del PD, certo. Beh, diversi esponenti del Partito Democratico, anche importanti, vice sindaci eccetera, accusati di collusioni con la criminalità organizzata eccetera eccetera, guardi, eccetera. Dico, la cosa che comunque un po' da lombardo mi dà fastidio è che comunque poi oggi si è anche stati sfortunati, perché con le comunicazioni appunto della DIA che dicevano di queste famose collusioni dell''ndrangheta, sì, con... Ma chi è stato sfortunato, locali? Scusi? No, nel senso c'è stata questa cosa della DIA, poi c'è stato anche l'arresto di Iovine. Sono uscite queste cose, capito? Perché sembrerebbe quasi appunto come per dire, Saviano dice la Lega, che comunque è forte in questi territori, è collusa con la mafia e va comunque a interloquire con l''ndrangheta, scusi, e il giorno dopo comunque si dice effettivamente gli appalti sono a rischio, gli enti locali sono collusi e quindi magari nella persona. No, però scusi, che... l'allarme della DIA è soprattutto sulle collusioni tra l'imprenditore e l'andrangheta del Lombardia. Sì, no, ma io penso che comunque tra una persona che non è avvezza a questi temi, comunque che per certi versi possono essere anche complessi, in una successione di notizie di un giorno con l'altro di questo tipo possa anche comunque ad andare a pregiudicare quello che è comunque il nome di un movimento come può essere la Lega e Maroni. Quindi da quello capisco anche se so che lei non è d'accordo, che Maroni voglia replicare in una trasmissione. Ma sì, guardi, per me queste qua sono cose su cui, ripeto, un piano su cui un ministro degli interni non dovrebbe entrare. Raffaele da Bergamo, buonasera, grazie Roberto, sempre dal nord della Lombardia. Raffaele. Buonasera, buonasera dottor Cruciani. Io non riesco a capire perché il ministro si scaldi tanto. Perché Saviano non dice che la Lega è il referente dell'Andrangheta in Lombardia, dice che l'Andrangheta interloquisce con la Lega attraverso un suo esponente che non è neanche indagato, ma la mafia fa così con tutte le forze politiche, non lo fa solo con la Lega, lo fa sì, con però la... mi scusi Raffaele, a me stupisce, lo sa che cosa? Il fatto che qui stiamo a spaccare il capello, Saviano in realtà ha detto quello, tra parentesi, quel riferimento piuttosto che l'altro, anche sulla frase di Sandokan abbiamo ascoltato prima Mazzetti che diceva, ma noi in realtà non ha voluto fare un parallelismo tra Sandokan e Maroni, ma ha detto che la frase di Maroni è quella che gli ha riferito l'avvocato. Guardi, quando si fa un monologo non si spacca certamente il capello in quattro, si semplifica molto, per cui è normale che poi ci sia la stessa operazione dall'altra parte, non bisogna stupirsi. E quelli che si stupiscono per queste cose sono gli stessi che poi generalizzano e usano un certo tipo di argomentazioni, o no, Raffaele? Trovo assurda tutta questa polemica, si potrebbero chiarire loro due, ma senza... Sì, può darsi che sia assurda questa polemica, può darsi, ripeto, che abbia... Anche perché, prendendo anche l'esempio di Cosentino, non è perché siccome Cosentino è indagato, è stato chiesto l'arresto, il Popolo della Libertà è un partito colluso con la Camorra, con l'Andrangheta... No, certo, però quando si dice l'Andrangheta a nord come al sud cerca il potere della politica, al nord interloquisce con la Lega, si dovrebbe dire anche... Certo, interloquisce con tutto, con chiunque abbia in mano, interloquisce con chiunque abbia in mano le leve del potere. In alcuni comuni ci sono anche esponenti di altri partiti. Però, comunque, ripeto, poi a me non me ne frega niente di stare a commentare la singola frase di Saviano. Certo, Parenzo, non ci si può nascondere che c'è un intento polemico da parte di Saviano nei confronti della Lega in questa vicenda, o no? Ma senza dubbio, insomma, anche il riferimento a Miglio, completamente certo, fuori luogo, perché Miglio usava delle iperbole strepitose, come quando disse che bisognava tagliare l'Italia in due addirittura, o mandare l'esercito al sud. Sì, in questo caso era la costituzionalizzazionalizzazione della mafia, le cose era che bisognerebbe spiegare di Miglio. Di un intellettuale. Sì, sì. Tra l'altro Miglio è stato anche, era molto amico di professor Massimo Cacciari, sono convinto. Ma poi ha rotto con la Lega nella parte finale della sua parabola. Ha rotto della con Bossi nell'ultima parte, ma era chiaramente una provocazione. Se uno prende le scritture di Miglio lo capisce immediatamente. E messa in quel contesto lì era fazioso. 20:30, Borsa. Qui su Radio 24, il Sole 24 Ore, Davide Parenzi, collegamento da Roma, 800 24 00 24. Le notizie del giorno, come sapete, sono sempre legate alla questione che riguarda la criminalità. Colpo ai casalesi, arrestato Iovine, Saviano l'aspettavo da 14 anni. È incredibile come l'opinione di Saviano sulla questione dei casalesi sia praticamente allo stesso livello, certo, dell'opinione di un ministro. La folla esulta, uccidetelo. Magari è la stessa folla che ogni tanto è connivente con certo, gli stessi criminali, perché quando la folla esulta, uccidetelo, io ho sempre dei sospetti. Assolutamente. E poi mafia Lega, Maroni al contrattacco, voci di sanzioni per Mazzetti, come abbiamo ascoltato prima nell'intervento lo stesso Mazzetti qui, e il telegiornale di Mediaset ha elencato gli arresti del Viminale. Anche qui operazione mediatica, se vogliamo, di risposta a Fazio Saviano, no? TG5, se non sbaglio, che ha elencato gli arresti del Viminale, l'allarme della DIA, legami 'ndrangheta ad aziende lombarde. Come se gli arresti le facesse il ministro. Sì, ma è una vecchia polemica. Sicuramente l'azione del ministro contribuisce, può essere più o meno morbida. Ma in che modo? Cioè, questo io non riesco veramente a capire. C'è un compito di organizzazione delle forze di polizia, non altro. Cioè, vengono arrestati questi criminali a fronte di anni e anni di indagini, di pedinamenti, di appostamenti, come quelli che dicono, ecco, Provenzano l'hanno arrestato due giorni prima delle elezioni. Cioè, allora, voglio dire, le elettori gemelle sono cadute perché c'è stato il complotto demo, pluto, giudaico, massonico. Matteo Fogli da Ferrara mi manda un sms. Robe alla Grillo, Robe proprio, lasciamo la Grillo queste dietrologie. Visto che hanno trombato Telese, scrive Matteo, non è possibile associarle nella... No, vabbè, ma trombato nel senso. Non dalla 7, dico, qui dalla Zanzara, visto che hanno trovato, secondo questo ascoltatore, visto che hanno trombato Telese, non è possibile associarle nella conduzione qualcuno che tenga a casa e accarezzi il busto della Camusso? Non è male come freddura da parte di Matteo. Io accarezzo il busto di una velina, volendo. Quello. Caro Marchionne, aspetti un attimo che metto a posto un po' questa... Ho messo sopra una finta parrucca di Marchionne, gli occhialetti, il busto lo sto un po' accarezzando, eccolo qui, me lo sono portato da casa sapendo che c'era Diliberto. Emiliano da Pristina, addirittura dal Kosovo, fantastico. Cosa fai? Buonasera Emiliano. Buonasera Cruciani. Ma cosa fai? Come sta? È in Kosovo, ci chiama dal Kosovo. Come ci ascolta dal Kosovo con la cosa, naturalmente, allora, con la web, con il streaming, web. L'ascolto in streaming e costringo tutti i miei colleghi ad ascoltarvi ogni giorno. Beh, grazie, noi saremo più internazionali ancora lunedì prossimo a Strasburgo, in trasferta, anche con Parenzo, io e Parenzo, trasferta della Zanzara a Strasburgo. Neuroparlamento, sì. Chissà, allora, che sorpresa che troveremo. Io lavoro qui per l'Unione Europea, lavoriamo qui con la missione EU. Andiamo anche a Pristina, Parenzo, che aspettiamo? Facciamoci invitare a Pristina, facciamo la trasmissione da Pristina. Ma come si mangia a Pristina? Cosa si mangia? Ma non male, siamo in un ristorante che si chiama Pinocchio, è vicino all'ambasciata italiana e chiunque è stato in Kosovo lo conosce. Ma qual è il piatto tipico kosovaro? Ma no, ma qui si mangia in italiano, che kosovaro? No, qui fanno, no, vabbè, si chiama Pinocchio, ma fanno piatti anche tipici locali, le carni, le zucche, la carne. Il nome di un piatto. Sì, la carne nei Balcani è sempre ottima. Come si chiama la carne, il piatto tipico kosovaro? Come si chiama? Mesa, la carne in genere si chiama mesa. Mesa. Però poi qui i ristoranti internazionali danno nomi internazionali. Sì. Una salsiccia si chiama kobasica, per esempio. Che meraviglia. Kobasica, che meraviglia, come si chiama? Kobasica. E 'ndrangheta come si dice, no? Mafia, 'ndrangheta come si dice? No, 'ndrangheta purtroppo dicono internazionale. Purtroppo è diventato così internazionale che anche noi nella bella uniforme di polizia o dei carabinieri ci chiamano ciao mafia italiana. Ah, così lo dicono? Sì, per forza, perché e lei non si incazza, scusi. Raccontano che io mi incazzo come una iena, cioè sto cazzi ogni collega, gli spiego la differenza fra un camorrista e uno che indossa una divisa e li combatte, e poi magari ci capiamo. Non dovrebbe essere troppo complicato spiegarlo, comunque. Sì, però purtroppo se si immagina mafia italiana, e allora anche io in divisa, solo per avere lo scudetto tricolore sul braccio, mi chiamano mafioso. E di chi è la colpa, però, secondo lei? La colpa è dell'immagine che ci danno fuori. L'altro giorno una collega svedese così carina, così abbiamo lavorato su un progetto insieme. Finalmente vi togliete dalle scatole Berlusconi. Non so cosa gli sia arrivata in Svezia sta donna, però era quasi sollevata finalmente lei. E si rivolgeva a me come se tutti quanti stiamo lì a preoccuparci poi del studio. Ma sa, Berlusconi potrebbe spiegare alla sua collega svedese, dice, guardi, stia attenta che Berlusconi è come i gatti, cioè, sembra che sia morto, ma in realtà è lì, vivo e vegeto. Gli ho fatto capire, sono uscito un po' dagli stereotipi, gli ho fatto un po' capire la realtà dei fatti, però poi... D'altra parte la copertina di Newsweek, devo dire, insomma, è oggettivamente piuttosto penalizzante. Adesso Newsweek è un grande giornale internazionale, io non ho mai una grande considerazione di come i giornali italiani. Ma noi andiamo avanti così, dal l'unfit dell'Economist in poi, cioè qui nessuno racconterà che nel governo di Berlusconi c'è magari un ministro che è capace di arrestare 28 latitanti su 30. Cioè, questa sarebbe una notizia molto americana, che se lo fa Obama è fantastico, il miglior presidente del mondo, perché ha arrestato 28 Ma lei è poliziotto, diciamo, della polizia italiana? Della polizia di Stato. Che avete un distaccamento di circa 30 poliziotti. tutte le varie specialità. Come mai le è venuto in mente di chiamarci questa sera, Emiliano? Cosa ci voleva? Perché no, vabbè, vi ascolto sempre. E poi Duca, la gioia infinita, la gioia infinita dell'arresto di Iovine, fatto a cui ha contribuito il mio fraterno amico Alessandro Tocco, che è giù a Casal di Principe. Oh, lui è il capo di quello. Sono suoi amici quelli che hanno arrestato Iovine. Beh, Alessandro Tocco è mio amico da 20 anni ed è mio testimone di nozze. E lei è originario di lì? Lei è originario di lì? Io sono nato a Casetta, ma vivo a Cassino, come Alessandro. Ah. E scoprire, avere questa notizia su il giornale, sono scoppiato a piangere, dico la verità, perché era una cosa che aspettavamo insieme da anni e io so quello che significa, quello che ha fatto lui sul campo, a prescindere da Maroni e Berlusconi vari. È fantastico, io sono emozionato a pensarlo e sorridevo ascoltando quella persona che le chiedeva per cosa si emoziona Cruciani. Beh, io mi emoziono per questo, per l'arresto di Dio. No, ma lei fa bene. Lei fa bene emozionarsi, perché la sua vita, il suo mestiere, le sue amicizie, il suo paese anche, lei si emoziona anche per l'arresto di Iovine. Io qui all'estero, immagino, siamo in questo ristorante Pinocchio, sono con otto colleghi di otto paesi diversi e festeggiamo un farewell party, un collega che va via. Che meraviglia. E con loro li ho coinvolti in questa cosa, li sto raccontando dell'arresto di Casal dei Principi, gli ho detto: avete visto il film Gomorra? Beh, il mio compare lavora lì, lavora in quella zona, gli ho spiegato cosa fanno i poliziotti lì, è fantastico. Senta, il fatto che la folla esulti, uccidetelo, come lo interpreta lei? Posso? È una stronzata, cioè, no. Uccidetelo a Napoli, chiunque l'abbia potuto dire, è veramente una fesseria, diciamo così. Perché io forse prima mi sono spinto un po' oltre dicendo che magari la stessa folla... Non l'ho ascoltato purtroppo, perché sono... No, dicevo prima che è la stessa folla che magari è connivente ogni tanto con la camorra, l'ho buttata lì come provocazione, perché a me questo... Guarda, io sono nato a Casetta e Cassino si trova a pochi chilometri dal Garigliano che ci divide Campania e Lazio, quindi conosco quelle zone, le conosco benissimo, e generalizzare è un'altra fesseria. Cioè, dire no, che certo, tutti, certo. Però uccidetelo, è proprio una stronzata da giorni nostri. Qua posso essere d'accordo con Parenzo che dice queste sono grillate o fesserie che si urlano in quel momento, ma non si conosce la realtà dei fatti. Senta, la polemica tra Maroni e Fazio è una polemica che fa male all'Italia, è una polemica sbagliata. Chi sbaglia secondo lei? Non la voglio mettere in difficoltà, lei fa il poliziotto, lo so. È il mio ministro. Non lo so. C'è l'accostamento a Sandokan, da parte di chi ha fatto Saviano. Allora, che io sovvorelei, nel senso, se in una trasmissione qualsiasi si parla di queste cose, tu ministro dell'interno la snobbi. Però è pure vero che non è che si può dire tranquillamente questi fanno rapporti, Andrangheta c'ha rapporti con la Lega, dai. Sto una via di mezzo fra lei e Cacciari, dove trovare un equilibrio fra voi due. Traffico, se vuole resti con noi, le facciamo respirare un po' di zanzara live, ci sono altri ascoltatori. Emiliano da Pristina, poliziotto italiano, molto amico di una delle persone che hanno catturato, forse il principale, adesso dopo magari ce lo racconterà, uno dei leader, chiamiamolo così, insomma, uno dei camorristi più in vista, Iovine. Bene, andiamo con altri ascoltatori. Dino, provincia di Bologna, poi c'è anche Flaviana da Pescara, Ciro da Milano, Roberto da Ferrara e altri ancora. Dino, provincia di Bologna, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera anche a tutti gli altri ascoltatori. Sì, io ho chiamato per fare una cosa che a quanto vedo non è molto originale, perché stasera tutti quanti gli interventi sono sulla posizione presa dal ministro Maroni. Io sinceramente trovo che non ci sia nulla di cui vergognarsi, contrariamente a quanto diceva un ascoltatore precedente. Vergognarsi di che cosa, mi scusi? Che non c'è nulla per cui non c'è nulla di vergognoso nelle affermazioni di Saviano. Perché il problema fondamentale è: se uno ritiene che quelle affermazioni siano vergognose, che cosa sta pensando? Sta pensando che non c'è nessun uomo della Lega che possa essere minimamente contattato da una mafia. Questa è la realtà dei fatti, cioè perché uno no, pensa semplicemente, scusi un attimo, in realtà la Lega può sentirsi, alcuni dirigenti della Lega possono sentirsi coinvolti quando Saviano dice che l'andrangheta al nord come al sud cerca il potere della politica e al nord interloquisce con la Lega. Se uno dice questo, una cosa a me sembra banale. Cioè, mi sembra una affermazione però se al potere c'è la Lega, interloquiscono con la Lega. Se al potere c'è Rifondazione Comunista, tenteranno di interloquire con Rifondazione Comunista. Quindi, però mi scusi, bisogna portare anche i fatti dopo, no? Cioè, allora, citare un episodio. Ho capito, portare come esempio un episodio in cui un consigliere regionale della Lega non è manco indagato, non mi pare che sia risolutivo di questa questione, scusi. Il problema non è se esistono o non esistono i fatti, il problema è il seguente. Ma scusi, il problema non erano i fatti, allora, siccome è Saviano che l'ha detto, io ho citato solamente fatti, in realtà ne ha citato uno di fatto. No, io voglio parlare della reazione del ministro Maroni. Indipendentemente da quello che ha detto Saviano, ma come indipendentemente? Il problema è il seguente: o uno si tiene moralmente superiore a tutti gli altri, per cui è impossibile che nella sua organizzazione ci sia qualche mela marcia, e allora appena qualcuno dice guarda che potrebbe, ho capito, ma non è che uno si può difendere in alberi, e cosa facciamo? Ripristiniamo la categoria della superiorità morale? Ma quindi cosa c'entra questo? La superiorità morale della sinistra, ma... e adesso no, ma scusi, abbiamo la superiorità morale della Lega? No, ma scusi, il punto non è questo. Non è che uno può presumere che ci siano i rapporti, caro Dino. Non è che uno dice, presumiamo che siccome la Lega è al potere, allora ci sono dei rapporti tra l'andrangheta e la Lega. E no, caro mio, non è che si può dire così. Si devono provare certe cose, altrimenti uno non parla. Abbia pazienza, non è che si può dire... Sono assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Ma non ho detto, ma lei si rende conto del suo ragionamento perverso dove porta? No, è un ragionamento perverso, siccome conto del suo ragionamento retorico, del trucchetto retorico no, che sta applicando? Ma scusi, ma lei pensa che uno debba rispondere a delle accuse anche quando non c'è nulla? Non ho capito. No, infatti non deve rispondere di nulla, nel momento in cui ne risponde vuol dire che sta facendo un ragionamento del tipo che le ho detto io, cioè io sono così per bene che neanche devi dubitare di me. Ma no, ma non vuole dire questo. Questo vuol dire avere la superiorità morale, cioè naturalmente nella mia organizzazione non Parenzo. Ma no, se uno guardi, ragioniamo solo sulle cose dette. Se uno costruisce un ragionamento come quello che ha fatto Saviano, in cui dice c'è un'inchiesta in corso, c'è un episodio di una persona che è stata anche sospesa dalla Lega, che non è neppure indagata, che però sembra aver avuto rapporti con l'andrangheta, e in più il cattivo Miglio già 15 anni fa teorizzava che con la mafia vanno fatti degli accordi al sud e che la mafia si deve impadronire del sud e quindi con loro bisogna trattare, capisce che questo è un ragionamento che messo tutto insieme ha un substrato ben preciso. Allora, cioè, si vuole dire che siccome la Lega guida molte amministrazioni a nord, sicuramente è collusa con l'andrangheta, diciamo la verità. Si vuole dire. Questo si vuole dire, e non è che uno può rispondere nel merito a una cosa di questo tipo, perché non c'è niente. Poi ripeto, Parenzo, diciamo la verità, io me ne frego totalmente. Ho già detto quello che penso sull'intervento di Maroni, per cui sembra che difendo la posizione di Maroni. In realtà non la difendo per niente, perché penso che l'intervento sia sbagliato e che se Maroni avesse snobbato le cose che ha detto Saviano, non si sarebbe. Però il tema è troppo qui. Sensibile, effettivamente. Cioè, un sì, tema no, ma io capisco la sensibilità di Maroni, la capisco. Non stiamo parlando di una torta al cioccolato, si parla di mafia in questo paese. Però è vero. Che io sono affascinato dalla teoria di Diliberto, che il ministro degli interni parla una volta l'anno. Ma anche questo, sì, ma veniva della prima repubblica con i ministri democristiani. Certo, non c'era la televisione, non c'era la comunicazione. Già, anche Giorgio Napolitano, ministro degli interni nei governi di centrosinistra, non è che parlasse una volta all'anno. No, certo. Flaviana da Pescara, Flaviana, buonasera. Era Cruciani, salve, la seconda volta che ci sentiamo. La musichetta deve essere rapida, sennò domani musichetta. No, invece è una cosa interessante, le volevo dire. Qual è? Ma secondo me forse state a fare, secondo me, dei discorsi di grande filosofia dove filosofia non c'è. Perché attenzione però, ultima ora, Maroni allo scrittore: deponi le armi, conosco Roberto Saviano e lo stimo, per questo sono rimasto sorpreso da lui. Saviano dovrebbe essere al mio fianco, ma dovremmo litigare. Non dovremmo litigare, per questo mi sono arrabbiato, ma l'arrabbiatura ora è passata e vorrei dirgli di deporre le armi che lui ha imbracciato contro di me. E bisogna vedere adesso la reazione di Saviano. Flaviana, insieme agli altri, domani 18:30 alla Zanzara. Ciao. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. La Zanzara.